Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Un Agnelli tornerà a guidare Fiat, lascia Montezemolo, in arrivo John Elkann. La metà dei voli garantiti in Europa, ma il vulcano continua a deruttare. Crolla una parete rocciosa a Ventotene, muoiono due ragazzine in gita scolastica. Fini raduna i suoi, per me è il momento di rischiare, dice il presidente della Camera. Buona giornata dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Dopo una mattinata di voci la notizia sembra ormai ufficiale. La Fiat, come dicevamo nei nostri titoli, si prepara al cambio al vertice. Un cambio generazionale. Allora sentiamo tutti i dettagli in attesa dell'annuncio oggi pomeriggio a Torino da Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Sì, oramai è praticamente certo, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio alle 4 verrà annunciato che Luca di Montezemolo, dopo poco meno di 6 anni, lascia la presidenza della Fiat, rimarrà comunque nel consiglio d'amministrazione e rimarrà presidente della Ferrari. Il suo posto dovrebbe essere preso da John Elkann, che, ricordiamolo, è già presidente di Exor, la holding che controlla poco più del 30% di Fiat, e dovrebbe diventare in tempi brevi anche presidente della comandita di famiglia, la Giovanni Agnelli EC, consacrando quindi il ruolo di erede dell'avvocato e guida della famiglia Agnelli. Cosa significa dal punto di vista operativo per Fiat questa novità? Probabilmente moltissimo, almeno nell'immediato, la Fiat, le attività sia automobilistiche che le altre sono gestite da 6 anni, lo sappiamo, da Sergio Marchionne, che è impegnato proprio in queste ore negli ultimi dettagli della preparazione del piano industriale che verrà presentato domani. Forse già oggi ci verrà dato qualche dettaglio, ma non è detto che appunto la notizia relativa a Montezemolo abbia qualcosa a che fare con il piano industriale che verrà presentato domani. Andrea, ecco, c'è stato un primo commento intanto di Luca Cordero di Montezemolo: la fine della fase di traghettamento, ha detto, dicendoci sì, sereno, contento, sollevato. Un traghettamento lungo ma non lunghissimo. Beh, appunto, in 6 anni la Fiat è cambiata molto. Ricordiamo che nel giugno 2004, quando Marchionne e Montezemolo arrivarono a poche settimane di distanza l'uno dall'altro a Torino, alla presidenza e nel ruolo di amministratore delegato, il gruppo usciva da una crisi molto grave, era ancora in profondo rosso. In questi 6 anni i conti sono stati raddrizzati con un certo successo, anche se ricordiamo che l'anno scorso il gruppo ha chiuso ancora in passivo per la crisi dell'auto che ha colpito un po' tutti i produttori europei. Ricordiamo che l'anno scorso appunto Sergio Marchionne ha avviato l'operazione più importante di questi anni, cioè l'ingresso nella Chrysler, ed è proprio sulla unione con Chrysler e sulle sinergie derivanti da questa operazione che si aspettano le notizie più rilevanti domani, oltre che qualche lume appunto sul possibile scorporo di Fiat Auto dal resto del gruppo, uno scorporo che il mercato ha chiesto più volte, ma che non è detto che avvenga in tempi brevissimi. Grazie Andrea Malan, sentivamo conferenza stampa questo pomeriggio, naturalmente vi terremo informati. La situazione ora nei cieli europei: si ricomincia a volare, anche se gradualmente, si vola in Italia, in Europa sono aperti 3 scali su 4, si parla di circa il 50% dei voli riprogrammati, ma la situazione è tutt'altro che risolta. La nube del vulcano islandese continua ad essere un problema. Allora cominciamo da un quadro europeo andando a Londra da Giorgia Scaturro. Buongiorno. E se nella serata di ieri si era intravista la possibilità di riapertura nei cieli britannici, come dicevi tu, la nuova nube di cenere vulcanica ha offuscato di nuovo un po' le speranze di volare da Londra, almeno fino alle 19 di stasera. Da stamattina lo spazio aereo è aperto in Scozia e nel nord dell'Inghilterra, anche se però ora si vola solo sopra i 6.000 metri e non ci saranno voli dalle 2 alle 19. In Germania e Danimarca lo spazio aereo resta chiuso fino alle 14, in Finlandia aeroporti di nuovo chiusi fino alle 17, mentre in Francia dalle 8 sono stati parzialmente riaperti gli scali del nord e sono stati creati corridoi aerei tra Parigi e gli aeroporti del sud. 74 voli sono stati dirottati verso la Spagna, mentre Norvegia e Polonia hanno nuovamente dovuto chiudere lo spazio aereo. E per il momento queste sono le ultime notizie. Grazie a Giorgia Scaturro. Le compagnie aeree intanto non sono ancora in grado di quantificare i danni, ha rifinito il commissario europeo dei trasporti Siim Kallas. Al momento ha però ribadito la questione principale è riprendere i voli. In Italia allora che succede? Adriana Fracchi ha sentito poco fa il presidente dell'ENAC Vito Riggio. Lei ci conferma che da mezzogiorno ha riaperto l'intero spazio aereo italiano? Sì, nella direttrice ovviamente sud, che è quella aperta, perché se al nord è chiuso non si può far partire nessuno perché non lo ricevono, insomma. Non si va in questo momento in Norvegia, non si va in Inghilterra, ma si va in Africa, si va in Medio Oriente, si va in Nord America, si va in Sud America, non solo da Fiumicino ma anche da Malpensa. Ecco, Eurocontrol parla di un'operatività del 50% dei voli. Sì, di questo 50% noi siamo a questo punto insieme alla Spagna, alla Grecia una gran parte, perché evidentemente siamo stati favoriti dalla lontananza dal vulcano e quindi abbiamo potuto riaprire prima in base alle nuove regole stabilite ieri da Eurocontrol. Ricordiamo solo per praticità quali sono in questo momento gli spazi aerei ancora chiusi, gli aeroporti ancora chiusi. Risulta chiuso in questo momento la Germania, la Polonia, l'Ungheria, la Svizzera e la Francia, la parte nord della Francia. Però la situazione è soggetta a rapidi mutamenti, speriamo in senso positivo, perché stanno le autorità di aviazione civile di quei paesi valutando, come abbiamo già fatto noi, la possibilità di volare in sicurezza anche in quel caso. Ovviamente anche l'Inghilterra. Anche l'Inghilterra, che in questo momento risulta chiusa perché sembrerebbe che c'è un'altra eruzione, ma su questo abbiamo notizie incerte, aspettiamo il bollettino dei vulcanologi. E noi andiamo allora però negli aeroporti italiani, a Linate, Giovanni Capuano. Sì, buongiorno da Linate, dove è tornata a funzionare regolarmente questa mattina la navetta Milano-Roma, la prima a garantire l'operatività al momento della riapertura dello spazio aereo sul nord Italia. A Linate, dove ieri erano stati cancellati 285 voli, si registrano al momento solo ritardi però contenuti entro le due ore nelle tratte verso gli aeroporti del sud e della capitale, ritardi che tra l'altro vanno riducendosi con il passare delle ore. Questa mattina c'è però chi ancora ha scelto mezzi di spostamento alternativi, tra di questi ad esempio il ministro Maroni, che si è recato a Roma in treno. Altre migliaia di passeggeri invece hanno affollato i banconi dell'Alitalia in attesa di imbarcarsi. Complessivamente 33 i movimenti da e per Linate, 5 quelli che hanno interessato Malpensa tra le 8 e le 11, l'ultimo dato ufficiale disponibile. Una situazione però destinata a migliorare nelle prossime ore, perché la apertura completa dello spazio aereo, decisa a partire da mezzogiorno, consentirà la partenza anche delle centinaia di passeggeri in attesa di imbarco per la Spagna e che questa mattina ancora affollavano l'aeroporto di Linate. Si fa sapere però che ci vorrà ancora qualche ora perché anche queste tratte possano tornare effettivamente operative. Da Linate è tutto, linea allo studio. E dallo studio andiamo a Fiumicino, Nicola Accardo. Sì, buongiorno, qua c'è certamente meno caos di ieri, parlo del Terminal 3 dei voli internazionali. Sono ripartiti circa 60 voli e anche alcuni di quelli previsti per Parigi e Milano Malpensa, dove sono dirette moltissime persone bloccate qui da giorni. Sul fronte partenze si può essere ottimisti, come ha spiegato ai nostri microfoni il direttore dell'aeroporto Vitaliano Turrà. Il pericolo non è scampato per Fiumicino, nel senso che la nube probabilmente interesserà, come già lo sta facendo in parte, il cielo italiano. Quella che è la novità è che i tecnici hanno verificato che la nube che sta interessando questa parte di Mediterraneo non costituisce pericolo per la navigazione. La situazione è comunque lontana dalla normalità perché si accumulano ritardi fino a 3 ore. Tutti qui attendono con impazienza la riapertura degli scali tedeschi e inglesi. E da Fiumicino è tutto, a voi la linea. Grazie anche a Nicola Accardo, continueremo ad aggiornarvi sulla situazione nei cieli. La nube sopra l'Italia è osservata grazie ai radar del CNR di Firenze, appare di bassa concentrazione, anche se sembra che in queste ore stia aumentando, questo quanto dicono i ricercatori del CNR, li sentiremo tra poco a Italia in Controluce alle 13.30. Ora invece un'altra notizia degli ultimi minuti: a Ventotene è crollata una parete rocciosa, ci sono due vittime. Stefano Totoro. Sì, buongiorno, una scolaresca di una scuola media di Roma in gita con un gruppo di insegnanti giocavano sulla spiaggia a Cala Rossano quando un costone di tufo è franato e ha letteralmente travolto i ragazzi. Purtroppo due alunne di 14 anni hanno perso la vita, una terza è stata portata in codice rosso all'ospedale di Latina. Sentiamo però la testimonianza del proprietario di un ristorante che si trova a Ventotene, a pochi metri dal luogo della tragedia di Cala Rossano, testimonianza raccolta pochi istanti fa. Voi siete vicini a dove è successa la tragedia? Siamo proprio sopra la spiaggia siamo noi. Che cosa è successo? Si è caduto un pezzo di montagna, di roccia, e quindi... Ma questo pezzo di montagna quanto è alto? Ma 10 metri neanche dalla spiaggia, sulla spiaggia. Ma è roccia? Sì, è roccia, però è molto friabile, è tufo friabile, è quasi terreno. Quindi è crollata da solo, i ragazzi erano sotto da quello che... Erano sotto, sì. Stavano giocando, prendendo il sole, questi ragazzi delle scuole. E quindi gli è arrivata addosso? Sì, è arrivata addosso, sono stati seppelliti proprio da questi grossi massi, poi si è frantumato questa, i grossi massi. Che cosa vede in questo momento? No, niente, perché da sopra non c'è, bisogna scendere un tornante di strada, ma io non c'ho il coraggio di andare a vedere. Tra questi bambini seppelliti sotto, l'elicottero ha portato via un ferito grave, un bambino ferito grave. Questa dunque la testimonianza, naturalmente se ci sono aggiornamenti su quanto successo ve ne daremo conto nelle prossime edizioni di GR24, a voi. Grazie Stefano Totoro, come diceva aggiornamenti se ci saranno nelle prossime edizioni. Ora invece il nostro sondaggio di oggi. La domanda è questa: Roberto Saviano continuerà a pubblicare con Mondadori? Dubbio che lo stesso autore di Gomorra coltiva dopo le parole di Berlusconi, non nuove a dire il vero, secondo il quale troppi film e libri sulla mafia sono un supporto culturale alla criminalità organizzata. Il premier ha citato anche Saviano qualche giorno fa e dalla risposta dello scrittore si è innescato il dibattito. Ma secondo voi una pubblicistica ampia rischia davvero di danneggiare l'immagine dell'Italia all'estero? Nel nostro sondaggio di oggi prevalgono i no con il 54%. Raffaele Cantone, magistrato e autore di un libro sulla camorra con Mondadori, ha sentito in questi giorni Saviano. L'ho sentito abbastanza amareggiato, nel senso che lui dice le critiche sono legittime, ma io vorrei critiche, non prese di posizione a prioristiche, perché quando tu dici un'attività è di supporto alla mafia, io credo che la verità non sia mai di supporto a nulla. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare a radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Come si fa a dire che incrementa la camorra? È stato anche il commento del presidente della Camera Gianfranco Fini. Non l'unico e forse non il principale, sicuramente non il principale punto di dissenso con Berlusconi. Fini ha chiamato questa mattina a raccolta i suoi. 13:17 minuti, le principali notizie di oggi di GR24. È crollata una parete rocciosa a Ventotene, muoiono due ragazzine di 13 e 14 anni, erano in gita scolastica. Un Agnelli torna a guidare Fiat, lascia Montezemolo, nel pomeriggio l'annuncio, dovrebbe arrivare John Elkann. La metà dei voli garantiti in Europa, aperto lo spazio aereo italiano, ma il vulcano islandese continua a deruttare, potrebbero esserci altri problemi. E poi la notizia che vi abbiamo annunciato con Fini che ha radunato oggi gli ex DN. Per me è il momento di rischiare, dice il presidente della Camera. E allora cosa è successo? Si apre davvero una fase nuova? Andiamo da Elisabetta Fiorito. Una minoranza interna al PDL è quello che chiede il presidente della Camera Gianfranco Fini nella riunione in corso nella sala Pinuccio Tatarella qui a Montecitorio. Non ho intenzione di stare zitto né di togliere il disturbo, ci sono momenti in cui bisogna guardarsi allo specchio e decidere se si è disposti a rischiare per le proprie idee. Per Fini il PDL è un progetto politico riuscito solo in parte, il problema non è di poltrone o di potere, la questione è che c'è scarsa attenzione alla coesione sociale del paese e il motivo è ricondurre al rapporto con la Lega. Fini si chiede quindi se può esistere il dissenso interno e auspica che Berlusconi lo accetti. Vedremo quali saranno i fatti consentiti a questa minoranza e critica anche il Premier sulle parole dette su Saviano. Una quarantina di ex DN sono presenti alla riunione e stanno firmando il documento uno ad uno. Altro capitolo è quello della riunione stessa, blindatissima a Montecitorio, i commessi bloccano i giornalisti, ma è certamente particolare fare questo dispiego di forze ordinato proprio dal Presidente della Camera per una riunione politica e non per un incontro istituzionale. A voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, come sentivamo l'incontro è in corso, anche su questo vi aggiorneremo nel corso della giornata. Attenzione intanto all'interno del PDL che condizionano un voto atteso, quello sulla caccia. Andrea Viali. Anna, l'aula di Montecitorio dovrebbe votare nel pomeriggio la contestata norma che concede alle regioni la possibilità di allungare i calendari venatori. La misura, lo ricordiamo, è contenuta nel disegno di legge comunitaria, non piace all'opposizione ma divide, come dicevi, anche la stessa maggioranza. 30 parlamentari del PDL ieri hanno fatto sapere che non la voteranno. Il centrodestra ora sta cercando una soluzione per evitare una possibile bocciatura. Non è escluso che questa norma venga stralciata all'esterno di Montecitorio. Intanto anche oggi prosegue il sit-in di protesta organizzato già da ieri da diverse organizzazioni ambientaliste. Dalla Camera è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Nella maggioranza c'è un altro tema intanto che fa discutere. Uscite estemporanee secondo i sindacati, quelle del ministro della pubblica istruzione Gelmini di istituire graduatorie regionali per gli insegnanti. Un'idea comunque lanciata dal Carroccio, come ci spiega la deputata leghista Paola Goisis al microfono di Maria Piera Ceci. Siccome continuano ad esserci richieste di trasferimenti a seguito appunto del desiderio di un insegnante magari della Campania di tornare a casa, di tornare in Campania, va a finire che siccome sono tanti questi insegnanti che hanno questo desiderio, questo può essere un desiderio semplice, ma poi c'è anche quello legato alla richiesta di trasferimento per quelle famose, la questione della 104. Perché chiedono il trasferimento? Perché presentano una certificazione medica dalla quale risultano determinate malattie, determinate patologie, quali la depressione, l'ansia, le allergie ambientali, certo uno che è abituato al sole della Campania o della Sicilia che viene a Milano o in qualche altra nostra regione evidentemente insomma presenta queste patologie. Allora noi chiediamo che per esempio se arrivano su venga dimostrata, venga verificata la certificazione che queste malattie siano reali. Evidentemente dove invece questo non avviene c'è una richiesta continua di trasferimenti. La richiesta continua di trasferimenti impedisce quindi l'avvio regolare dell'anno scolastico. Questo e per i ragazzi non c'è continuità tra l'altro. E non c'è continuità didattica. Così Paola Goisis al microfono di Maria Piera Ceci. 2010, 150 anni dell'Unità d'Italia, noi continuiamo a seguire. Giornalisti in cammino. I Piemonte Patriots sono vicini alla meta. Da Torino siamo arrivati con l'aiuto di un po' di staffette a quota 290 chilometri e all'incontro con i colleghi di Italica 150 impegnati nella marcia dall'Alto Adige alla Sicilia. Tra ieri e oggi da Cremona a Piadena ci siamo immersi nel cuore della Padania, nella terra del grano e degli allevamenti, dei canali e delle opere di irrigazione che in alcuni casi risalgono al 500 e sono merito del genio di Leonardo. A Cappella de Picenardi ci accoglie un forte odore di carri, poi voltato l'angolo un uomo in turbante. Questa è anche una delle terre di adozione dei Sikh, indiani del Punjab, terra dei cinque fiumi, che in 15 anni sono arrivati a quota 25.000 nelle province del grande fiume italiano. Il Po, Reggio Emilia e Cremona in particolare. Sono ottimi allevatori apprezzati nella gestione delle grandi stalle che si incontrano in ogni borgata. Ieri sera a San Lorenzo de Picenardi ci ha accolto la quiete fuori dal tempo di una bella cascina a corte proprietà della famiglia Galetti dal 1922. Oggi a Piadena c'è invece movimento, è giorno di mercato. Andiamo ora in cerca della trattoria dell'Alba e delle memorie del gruppo Padano e poi del duo di Piadena. Nell'aria però le canzoni del grande fiume, da Campagnola a Senti il fischio del vapore, non si odono più, ma il passato è là, a un cantone, pronto a riemergere. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore, Piadena. Rinviata al 27 aprile l'udienza del processo a Calciopoli in programma oggi a Napoli. Il motivo? Il blocco dei voli che ha impedito all'ex allenatore del Milan e Juventus Carlo Ancelotti di arrivare a Napoli, ma intanto emergono altri elementi. un'attività integrativa di indagine la cui documentazione è a disposizione dei difensori e degli imputati al processo Calciopoli. Da quanto si è saputo, si tratta di una recente intervista della presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. È la novità annunciata in chiusura di udienza dal PM Giuseppe Narducci. La presidente della nona sezione del Tribunale, Teresa Casoria, ha anche deciso di acquisire agli atti le 75 intercettazioni depositate la settimana scorsa dai legali di Luciano Moggi, il principale imputato accusato di essere a capo di una presunta associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Ci sarebbero altre 20 telefonate che gli avvocati intendono utilizzare e potranno depositarle entro il 4 maggio, quando il Tribunale nominerà un perito per verificare il materiale. L'udienza è stata rinviata al 27 aprile perché la nube di Islanda ha impresso un freno al processo. I testi chiamati dall'accusa non sono riusciti infatti ad arrivare a Napoli a causa del blocco dei voli. Da loro anche l'allenatore del Chelsea, Ancelotti. Laura Vigiano, GR24, Sole 24 Ore, Napoli. E la seconda Corte d'Assise d'Appello di Milano, invece in Camera di Consiglio per emettere la sentenza al processo d'appello per la strage di Erba, che vede imputati Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi, già condannati all'ergastolo in primo grado. La decisione è attesa nelle prossime ore. Milano, nelle prossime ore parliamo di calcio, attende Inter-Barcellona, semifinale di Champions League. Dario Ricci. Sì, buongiorno. San Siro tutto esaurito, saranno in 80.000 questa sera, fischio d'inizio alle 20.45 per l'andata di Inter-Barcellona. Mourinho, ha detto di non essere d'accordo, ma sicuramente questa è la finale anticipata di Champions, con tutto il rispetto delle altre due semifinaliste, Bayern Monaco e Lione, che si affronteranno domani. Per quanto riguarda le formazioni, nell'Inter c'è il dubbio del schieramento tattico, perché Mourinho potrebbe optare per un'unica punta, Milito, al centro dell'attacco, ma a contendere la maglia all'argentino c'è Mario Balotelli, dato comunque in remonta per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Nel Barcellona invece Guardiola potrebbe schierare Pujol come terzino sinistro, al centro della difesa Piqué e Gabi Milito, che è proprio il fratello dell'attaccante dell'Inter. Per quanto riguarda le quote, bookmakers che danno il Barcellona favorito, anzi mai dal giugno 98, da quando le scommesse sono legali in Italia, una vittoria casalinga dell'Inter era quotata così alta e quindi considerata così improbabile. E cancelli aperti a San Siro dalle 18 e tifosi catalani che stanno arrivando a singhiozzo causa le conseguenze sui cieli europei della nube vulcanica islandese. Per il momento è tutto. Grazie Dario Ricci. Nube che ferma i tifosi, ferma i viaggiatori, ma anche spettacoli, concerti e anteprime cinematografiche. Alla fine il grande vulcano islandese ha sconfitto anche l'imbattibile Iron Man. Dammi un baciotto di auguri, potrei non tornare. La prima del nuovo film ispirato al supereroe dei fumetti Marvel era prevista a Londra per lunedì, ma è saltata per l'incertezza sui voli, tra gli altri, di Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson e Mickey Rourke. Sì, posso volare. Guardiamo in faccia la realtà. Io non sono certo un eroe, mi pare evidente. Resteranno tutti a Los Angeles, così come è successo al cast di The Last Song, che doveva presentare il film oggi sempre a Londra. Qualche coraggioso nella musica invece c'è, ad esempio i Metallica, che hanno optato per il traghetto 24 ore per arrivare da Oslo a Riga per un concerto. E anche in Italia le cose non vanno diversamente. Annullata a Milano la prima di Opera Show, con il cast ancora fermo a Lisbona. Defezioni a Linea d'Ombra Festival Culture Giovani a Salerno. Ad Ancona ha cancellato uno spettacolo al Teatro delle Muse. Ad Asti non ci sarà il grande ritorno di un'icona degli anni Ottanta, Nick Kershaw. Ma c'è anche chi non può tornare a casa, come i Madina Lake o i Misfits. La storica punk band americana, per non annoiarsi, ha aggiunto due date al tour. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è il momento di Italia in Controluce. GR24 finisce qui. Un saluto da Anna Migliorati, che ha curato e condotto questa edizione, in regia Pietro Lacorte. Italia in Controluce, GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.